Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. La chiusura del Brennero sarebbe un danno gravissimo per l'economia e per i trasporti europei, non solo italiani. Così il ministro dei trasporti Graziano Del Rio ha allertato sulle conseguenze della decisione austriaca di introdurre controlli serrati alla frontiera col Brennero per bloccare il flusso dei migranti. Gli strumenti che utilizzerà il governo di Vienna sono 250 agenti di polizia, corsie a 30 km orari per effettuare controlli a vista su automobili e mezzi pesanti e, se necessario, 370 metri di rete metallica che taglieranno la A22. Anche se non si esclude l'intervento delle forze armate e la possibilità di ispezionare i treni in transito tra Italia e Austria. I dettagli dell'intervento sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa, ma per il momento si tratta soprattutto di un ultimatum rivolto all'Europa, che qualcuno collega allo scenario politico del paese alle prese con le elezioni presidenziali. Propaganda o pericolo reale per la libera circolazione? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un approfondimento che questa settimana non poteva non essere dedicato al Brennero, un confine, a questo punto non possiamo che definirlo tale, che sta diventando sempre più pericoloso anche per il mondo dei trasporti. Basti pensare che dal Brennero passano ogni anno circa 40 milioni di tonnellate di merce, i due terzi della merce che entra ed esce dall'Italia. Ne parliamo oggi in compagnia dei nostri ospiti, innanzitutto il collega Andrea Ferro di Radio 24. Buon pomeriggio Massimo. E Pasquale Russo, segretario generale di Conf Trasporto, che ovviamente sta seguendo con particolare attenzione questa vicenda, soprattutto per quel che riguarda il trasporto delle merci. Andrea, innanzitutto tu hai seguito sicuramente tutta la vicenda, in questi giorni si sono accavallate conferenze stampa, si sono accavallati incontri, c'è stato anche quello tra i due ministri dell'interno. Qual è il punto della situazione? Cosa succederà da qui a breve al Brennero? Gli ultimi sviluppi dicono che nei giorni scorsi c'è stato questo incontro a Roma tra i due ministri dell'interno Alfano e Sobotka, e sostanzialmente il risultato è stato che Alfano ha in qualche modo dato l'idea di recepire l'istanza da parte dell'Austria di intensificare i controlli sul territorio italiano, però con personale di polizia rigorosamente italiano. Ecco, un impatto che sarebbe pesantissimo per il mondo dei trasporti. Russo, Confcommercio, a cui voi aderite, ha realizzato un vero e proprio studio per calcolare quale potrebbe essere l'impatto di una riduzione della velocità commerciale al Brennero. Sì, noi abbiamo cercato di stimare quale potrebbe essere il danno derivante sia per l'autotrasporto ma anche per l'economia complessiva. È stato più volte detto e ridetto, ma credo che valga la pena ricordarlo ancora una volta, che un'operazione come quella che vuole fare l'Austria significa una grossissima perdita di competitività per tutto il sistema delle merci italiano e non solo, ma preoccupiamoci dell'Italia che già basta. Noi abbiamo stimato che ci sia un costo di 170 milioni di euro in più soltanto per un'ora di attesa. Tra un po' chiederò al collega Ferro cosa è stato previsto nello specifico per il merci, però vorrei continuare e vorrei rimanere sulle Alpi, Russo, perché in realtà questo è solo l'ultimo degli ostacoli di tipo burocratico che i paesi confinanti pongono alle merci italiane. Sì, l'altro esempio è quello della Svizzera, che sappiamo tutti, pur non essendo un paese dello spazio europeo, è un paese che ha stipulato una convenzione per il transito delle merci e delle persone con l'Unione Europea e quindi dovrebbe garantire la massima circolazione di merci e persone. La Svizzera negli ultimi tempi ha chiuso ben 12 punti di dogana in cui si effettuavano i controlli, con una dilatazione dei tempi di attraversamento dovuto appunto al fatto che ci sono meno dogane e quindi ci vuole più tempo per fare i controlli, che sta pesantemente penalizzando il transito delle nostre merci. E qui ci va fatta una riflessione: il problema dell'arco alpino è un problema sul quale almeno la nostra associazione sta discutendo, credo che saranno almeno 15 anni, 20 anni, adesso diciamo questo dell'Austria, che tra l'altro non è nuova a meccanismi di limitazione della circolazione, ricordiamocelo, perché in tanti ricorderanno i divieti di circolazione settoriali messi dagli Austria, qualcuno ricorderà anche il vecchio sistema degli ecopunti. L'Austria non è un paese nuovo nel, diciamo, inventarsi meccanismi per non far transitare le merci italiane. Crediamo veramente che il governo dovrebbe fare molto, molto di più per evitare il problema dell'Austria, ma il problema, diciamo, dell'attraversamento dei valichi alpini, nell'interesse non solo dell'autotrasporto ma di tutto il sistema produttivo del paese. Ed è questo l'elemento, il tema centrale. Questo non è un problema legato al mondo dei trasporti, ma è un problema legato alle nostre merci che non riescono a raggiungere poi i mercati del centro Europa. Ferro, che cosa è stato previsto in particolare nel progetto che è stato illustrato qualche giorno fa dagli austriaci per quanto riguarda il traffico dei veicoli merci? Allora, sull'autostrada i controlli saranno a vista con i mezzi pesanti separati dalle auto e velocità ridotta a 30 km. All'uscita dell'ultimo tunnel prima del valico, sempre secondo il piano annunciato dalla polizia austriaca, i tir saranno incanalati sulla destra, quelli diciamo così che desteranno qualche sospetto, saranno indirizzati verso il piazzale e lì passeranno al vaglio dello scanner termico per accertare l'eventuale presenza di migranti nascosti. Le auto procederanno sulla carreggiata centrale, ripeto, sempre a 30 km orari. Russo, si pone un problema di competitività anche per il nostro autotrasporto, che è già colpito pesantemente dal cabotaggio abusivo e che adesso potrebbe essere ulteriormente colpito da questo tipo di iniziative. Sicuramente l'autotrasporto ne soffrirà in termini di costi e in termini di perdita di produttività, perché è evidente che anziché, come dire, metterci magari mediamente 2 giorni per una tratta internazionale, ce ne metteremo 3 se non addirittura 4, e quindi la perdita di produttività per l'industria dell'autotrasporto sarà enorme, ma come è stato più volte ribadito sarà enorme la perdita per tutto il sistema produttivo italiano. Dopodiché voglio però anche soffermarmi su un'altra riflessione, e cioè che quella direttrice di traffico, il Brennero, è una direttrice di traffico che serve certamente a tutto l'export italiano, ma che è anche collegato con il sistema distributivo dei porti dell'Adriatico. Noi abbiamo tantissima merce che ormai arriva dal Medio Oriente, tra l'altro molta merce che arriva da quei paesi che oggi stanno soffrendo e che hanno il problema dei migranti, quindi significherà in qualche modo penalizzare anche la possibilità per quei paesi che vogliono esportare sul centro Europa e che utilizzano la dorsale adriatica, i nostri porti sull'Adriatico. Significa penalizzare quelle zone di quei paesi che esportano attraverso questo corridoio e che potranno farlo in maniera molto ridotta, proprio perché c'è una misura che in qualche modo vuole evitare il fenomeno dei migranti, ma che paradossalmente lo aiuta a crescere, perché sono paesi molto, diciamo, spinti sull'export, e se noi togliamo a quei paesi la possibilità di esportare o di esportare meno, andiamo ad aggravare un fenomeno. È veramente una cosa, io direi da pazzi, mi scuso con tutto il rispetto, ma è una cosa da pazzi, ed è soprattutto da pazzi se si pensa che, come dire, i camion europei possano rappresentare, diciamo, il veicolo principale attraverso il quale i migranti vogliono attraversare le frontiere. Sappiamo tutti i migranti come arrivano, sono visibili, sappiamo tutti dove stanno, sappiamo tutti dove arrivano, e l'Austria si preoccupa che questi, come dire, non possano arrivare in Austria attraverso i camion in maniera abusiva. Noi riteniamo che sia veramente una questione molto strumentale, non ha nulla di logico, e dopodiché se proprio si volesse fare un'operazione per limitare il passaggio dei veicoli per scongiurare il fenomeno dei migranti, molto probabilmente questo andrebbe fatto sui camion di provenienza extracomunitaria, non certo su quelli di provenienza comunitaria, che, come dire, hanno ancora meno possibilità di essere utilizzati dai migranti come veicolo di passaggio alle frontiere. Ecco, tra l'altro poi c'è anche da registrare questa presa di posizione da parte della Camera di Commercio Federale Austriaca, che boccia, quindi anche in casa hanno dei problemi i sostenitori sostenitori di questa tesi, che boccia sonoramente l'ipotesi di controlli alle frontiere con l'Italia. Evidentemente la Camera di Commercio federale austriaca capisce quale possano essere le ripercussioni anche sul fronte delle merci. Termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e delle merci. Prima di lasciarci, io vi ricordo l'hashtag che Radio 24 e la rivista TIR hanno creato proprio per segnalare fenomeni, per denunciare situazioni che si possano in qualche modo registrare al Brennero. L'hashtag è Brennero Merci, utilizzatelo con Twitter per comunicare con noi. L'appuntamento con Container ritorna invece sabato prossimo alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli